Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Io sono fisico, ma anche politico, un corpo solido, immerso in un liquido. Io sono ritmico. Equilibrio, lo stiamo cercando e ci vuole fisico, ma anche soprattutto cervello per restare in equilibrio, per ritrovarlo quando sentiamo, vediamo o percepiamo di averlo perso. E sì, perché l'equilibrio si sente, si vede, si percepisce. Sarà capitato a tutti di sentire, ad esempio, mancare la terra sotto i piedi, di avere una vertigine, di vedere il mondo girare o di sentirsi girare come una trottola. Insomma, come si dice, di perdere l'equilibrio. Ne parliamo oggi col professor Giorgio Guidetti, responsabile del servizio di audio vestibologia e rieducazione vestibolare alla USL di Modena, ospedale Ramazzini di Carpi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Che cosa dobbiamo, quale domanda possiamo farci per capire se siamo o non siamo in equilibrio o se l'abbiamo perso? Se ci sentiamo perfettamente a nostro agio in qualsiasi condizione, nel modo in cui viviamo. Ok, quindi se noi stiamo bene siamo in equilibrio, professor Guidetti. Eh sì, è una visione larga dell'equilibrio. Dobbiamo stare sempre bene in qualsiasi condizione ambientale ci troviamo. Anche se ci alziamo all'improvviso dalla sedia o ci tiriamo su da quando ci abbassiamo per raccogliere una cosa? Certamente, ma anche quando camminiamo in spazi aperti, siamo dentro a un supermercato col carrello che spingiamo lungo le corsie, oppure quando siamo su un balcone guardiamo in basso. In tutte le condizioni dobbiamo sentirci perfettamente a nostro agio. Insomma, la terra non deve mancarci sotto i piedi, professor Guidetti. Esattamente. Oppure non dobbiamo sentirci girare né vedere il mondo girare. In questi casi sappiamo che il nostro equilibrio è momentaneamente perso, ma noi andiamo sempre in cerca di equilibrio. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Ma l'equilibrio si vede anche ad occhio. Ci sono tanti e chiari indicatori, quelli che ci fanno dire quando incontriamo una persona, un'amica: ma come ti trovo bene, sei un fiore, sei una bellezza. Ma ci sono anche dei piccoli disturbi che un occhio attento può interpretare come segnali di perdita di equilibrio. Carenze, eccessi, magari dovuti a un'alimentazione troppo ricca, raffinata o troppo povera di nutrienti. Che so, le unghie fragili, i capelli spenti, la pelle un po' senza quel colorito sano, il girovita che si fa un po' più pesante. In linea con noi abbiamo il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo della Fondazione Dognocchi di Parma e autore di Super Salute, Sperling Editore. Buongiorno, dottor Gualerzi. Buongiorno, buongiorno a voi. Insomma, l'equilibrio noi lo vediamo in faccia. Quando una persona sta bene, lo anticipava anche il professor Guidetti, la vediamo, ci rimanda un'azione, un'immagine bella, fresca, riposata, presente. Ma ci sono dei dettagli invece al contrario che potrebbero tradire che questo equilibrio è perso o deve essere recuperato. Quali sono? Sì, appunto, io chiederei proprio ai nostri ascoltatori quali sono i loro particolari segni o sintomi che avvertono quando perdono l'equilibrio, perché noi non sono solo quelli che vediamo banalmente ogni mattina che ci alziamo e ci guardiamo allo specchio, ad esempio vediamo, come abbiamo appena detto, i capelli più spenti, oppure ci sentiamo più gonfi, ci vediamo più secchi, una ruga in più. Questi sono dei segni appunto visibili, però ci sono anche dei segni che invece sentiamo, come ad esempio battere il cuore più velocemente in modo irregolare. Ecco, questi sono segnali che il nostro cuore, che il nostro corpo, che il nostro fisico ci manda e che hanno un significato proprio della perdita dell'equilibrio. Chiederei proprio ai nostri ascoltatori quali sono i loro sintomi classici o segni classici che avvertono quando si spezza qualcosa, si perde l'equilibrio. 800 24 00 24, come sempre potete scriverci al 349 238 6666, seguirci su Facebook o su Twitter. Ma l'equilibrio non solo si sente quando ci manca la terra sotto i piedi, o si vede quando abbiamo ci guardiamo davanti allo specchio o guardiamo una persona negli occhi, ma si percepisce, perché l'equilibrio è anche, come dire, un sentire emotivo. Cerca solo di mantenere l'equilibrio tra gli opposti. Vai pure verso gli opposti, ma mantieni viva la consapevolezza, in modo da essere un giorno capace di trovare l'equilibrio. L'oscillazione è quel che già stai facendo. Un momento sei contento, il momento dopo sei infelice. Sei andato da un estremo all'altro. Non occorre aggiungere altro che la consapevolezza. Osho. E in linea con noi abbiamo la dottoressa Roberta Cacioppo, psicologa e consigliere dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Buongiorno. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Quando le emozioni si prendono il sopravvento, un'emozione in particolare piacevole o magari un'emozione che ci mette in crisi, noi diciamo perdo le staffe se ci arrabbiamo, o l'ansia se ci sentiamo particolarmente agitate, e questi sono segni, chiari segni, che abbiamo perso l'equilibrio e dobbiamo ritrovarlo. Sì, l'equilibrio si può perdere momentaneamente, si può ritrovare, giusto la citazione di prima, si parlava di oscillazione, di consapevolezza, o il collega Guidetti parlava di sentirci a nostro agio, anche emotivamente e psicologicamente succede questo. Ci possono essere delle oscillazioni, ma sono, come dire, fisiologiche. Diverso è quando poi diventano troppo intense e più difficili da gestire. Parleremo insieme alla dottoressa Cacioppo di equilibrio emotivo. 800 24 00 24, come avete capito oggi decliniamo la parola equilibrio in tre ambiti. Il professor Guidetti ci aiuterà a ritrovare l'equilibrio quando avvertiamo vertigini, giramenti di testa. Il dottor Gualerzi invece risponderà alle vostre domande o darà indicazioni a chi capisce che qualche cosa è squilibrato, magari nella sua alimentazione. Guarderemo anche gli esami del sangue insieme al dottor Gualerzi, mentre la dottoressa Cacioppo ci aiuterà a capire che cosa si agita dentro di noi. 800 24 00 24, un numero verde per restare o ritrovare l'equilibrio che spesso si perde, ma è giusto così, si deve perdere per essere ritrovato per mille ragioni diverse. Sì, soffro di vertigini. Quando mi trovo a una certa altezza in montagna o c'è un dislivello un po' considerevole, praticamente mi gira la testa, devo fermarmi, aggrappare. E io soffro di pressione bassa, allora soffro a volte giramenti di testa. Devo tenermi a qualche cosa, mi viene prima un po' caldo e poi mi passa. Certo, essere troppo in alto magari mi dà un attimo di fastidio, ma penso che sia normale. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea. Professor Guidetti, perché all'improvviso abbiamo paura dell'altezza, oppure il mondo si mette a girare? E cosa vuol dire invece se si verifica la situazione inversa, cioè che il mondo sta fermo e siamo noi a girare come delle trottole? Che succede? Sono tutte varianti di disturbi dell'equilibrio, ciascuno dipende da una situazione diversa, chiamiamola di patologia, cioè quando noi vediamo il mondo girare siamo pressoché certi che è successo qualcosa di anormale nel nostro labirinto, cioè nella parte interna dell'orecchio, in uno dei due di solito, per cui si è creato uno squilibrio fra destra e sinistra, e questo provoca questa vertigine molto violenta e anche la più, diciamo, spaventosa per chi la prova, con tutto il mondo che va in centrifuga. Quando ci sentiamo invece instabili, insicuri, abbiamo la sensazione di quel capogiro fugace o mantenuto nel tempo, lì il discorso diventa molto più complesso. Di solito c'è un interessamento anche delle centraline dell'equilibrio che sono nel cervelletto, nel cervello. Diverso completamente il discorso della vertigine d'altezza. Quasi sempre quella è un'espressione, diciamo così, di un disagio psicologico in particolari condizioni, e che è legato tante volte a un errore di interpretazione da parte del cervello dell'altezza che ci separa dal piano d'appoggio. la componente emotiva in questo caso è chiave preponderante rispetto a una patologia vera e propria dei circuiti dell'equilibrio. Abbiamo Catarina che ci chiama da Roma all'800240024. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. L'argomentazione è molto interessante perché ci soffro da quando mi ricordo di pessimo equilibrio. Ho 44 anni e ho bassa pressione da sempre. E io ho difficoltà quando giro intorno a me stessa solo una volta di reggere in piedi dopo. Devo o reggere, prendere diciamo sostegno da qualche parte oppure a fermare testa in giù per aspettare che diciamo equilibrio mi segue. Mm-hmm. Poi questo succede a volte anche da sdraiati, non riesco a capire se è legato ai periodi in cui sono più stressata, sono libera professionista, però comunque ci soffro moltissimo di questo pessimo equilibrio. Io infatti lo dico sempre a tutti, c'ho pessimo equilibrio perché mi vedono di abbassare la testa, e volevo chiedere se c'era un rimedio o modi di poterlo migliorare. Certo, professor Guidetti. Quello che ha raccontato sembra... Lo conosce bene lei? Sembra un insieme di sintomi che sono certamente intanto molto fastidiosi, dove una componente di sofferenza del labirinto, direi che a occhio, ovviamente basandosi solo su questi dati, ma mi sembra molto probabile, quindi dovrebbe fare accertamenti mirati sulla funzione dell'equilibrio, sulla parte vestibolare in particolare, per riuscire a capire esattamente di cosa si tratta con precisione, intendo. Però siamo in quell'ottica e di solito sono cose rimediabili, o con i farmaci o con dei sistemi di diciamo esercizi specifici che si chiamano rieducazione vestibolare. Professor Guidetti, Caterina ha detto mi gira la testa anche quando sono sdraiato, e io ho diversi messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666 di ascoltatori che dicono io perdo l'equilibrio quando sono a letto, è possibile? Perché? Certo, è una delle patologie più comuni, anche se per molto tempo è stata diciamo non riconosciuta e confusa con altre malattie, per esempio quelle della cosiddetta cervicale. In realtà si tratta quasi sempre della formazione di piccoli calcoli all'interno del labirinto, che in particolari posizioni o in particolari movimenti, tipicamente a letto, ma anche nell'alzarsi, sdraiarsi, guardare in alto, guardare in basso, ecco, questi movimenti tipicamente scatenano una vertigine breve, molto violenta, che è dovuta al contatto sbagliato fra questi, diciamo, calcolini che si sono formati e le strutture dell'orecchio interno. È una patologia che spaventa per chi non ci è abituato, chi non l'ha mai vista o chi non l'ha mai provata, e naturalmente uno pensa di avere chissà quale malattia. In realtà si tratta generalmente di una cosa guaribilissima, grazie soprattutto a delle apposite manovre che effettuate nel periodo in cui il malato avverte questi sintomi riducono o eliminano, anzi di solito completamente, il problema nel giro di pochi minuti. Poi il problema diventa nel tempo di cercare di capire dov'è che c'è un rubinetto che perde, non limitarsi a vuotare il secchio dei calcoli che c'erano dentro. Perché c'è questa manovra che riporti i sassolini nel posto giusto. Sì, li porta nella zona dove ci sono le cellule, chiamiamole spazzino, che sono in grado di eliminarli. È una manovra che deve fare il medico, professor Guidetti? In che cosa consiste? Ha un nome preciso? Guardi, in realtà si tratta non di una manovra sola. Esistono tanti punti, tanti canali, si dice, dove possono andarsi a infilare questi calcoli e questi sassolini. E quello che ovviamente cambia è la manovra in funzione della posizione. Diciamo che abbiamo almeno 12, 13 o 14 manovre diverse a seconda delle caratteristiche della patologia. Quindi è una pessima idea effettuarle, diciamo, spontaneamente, magari andando a leggere su internet come si fa, perché significa quasi sempre rendere poi difficile la guarigione reale. Insomma, occorrono mani esperte per farla, e molto esperte. Dottor Gualerzi, con lei invece torniamo all'equilibrio che abbiamo detto si vede. Alcuni cambiamenti sono visibili a occhio nudo. Partiamo ad esempio dalla testa, capelli fragili, spenti, che si spezzano, si diradano, ci fanno dire qualcosa non va, sono in un periodo difficile. Dottore. Sì, allora, i capelli diciamo che rappresentano un importante biglietto da visita della nostra personalità, per la nostra personalità, ma anche per un occhio attento sono in grado di fornire indicazioni sull'equilibrio interno, quello neuroendocrino, quello psicologico e quello alimentare, quindi c'è un mare magno. Diciamo che la perdita, la fragilità dei capelli si ritrova più spesso in quelle persone, ad esempio, che perdono l'equilibrio del proprio sistema neurovegetativo, cioè in quelle persone in cui si crea un aumento del tono simpatico, quello dello stress, dell'ansia ad esempio, che prende appunto in queste persone il sopravvento su quello parasimpatico, cioè quello della calma e del rilassamento. Quindi le persone che sono tendenzialmente più stressate tendono ad avere capelli più fragili, no, o anche più spenti. È tipico anche degli squilibri ormonali, quindi ad esempio le donne quando entrano in menopausa e hanno un squilibrio dei propri estrogeni, quindi un calo dei loro livelli degli estrogeni circolanti, hanno una fragilità maggiore dei propri capelli, oppure chi ha uno squilibrio dei propri ormoni tiroidei, no? E i capelli sono proprio uno degli epifenomeni, diciamo degli effettori finali su cui questi sistemi endocrini funzionano. Infine anche la dieta sbilanciata, povera di proteine, ricca di zuccheri semplici, no? Può portare alla perdita, alla fragilità dei capelli. Quindi un consiglio che diamo è quello sicuramente, chi soffre di questi problemi, di prenderla con calma e di rilassarsi, perché questo è un buon modo per gestire il problema, ma anche di agire sull'alimentazione. Un consiglio sarebbe quello banale di iniziare la colazione con una muesli ricca di avena, perché l'avena contiene degli aminoacidi di cui si nutrono proprio i capelli e sono fondamentali appunto per evitare la perdita e perdere appunto, ridurre la fragilità dei capelli stessi. Quindi se vogliamo una bella chioma, puntiamo sull'avena, ideale alla prima colazione. Proviamoci, sì. Andrea ci chiama da Milano e Antonio da Novara. Andrea, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ospiti. Io avevo una domanda semplice, ma non so se ci sono degli studi che hanno già che ci possono già dare delle risposte. Vediamo. Volevo sapere, i telefonini e gli auricolari Bluetooth, quanto possono interferire poi sul benessere di tutto l'apparato dell'orecchio? Sì, uditivo e vestibolare. Uditivo. Professor Guidetti, abbiamo degli studi che ci danno delle indicazioni precise o sono in corso? Diciamo che c'è tanta paura che questo sia vero, che possano interferire, ma non c'è per ora nessuna dimostrazione scientificamente seria che documenti un danno. Una cosa però è stata documentata, e soprattutto questo vale naturalmente per i bambini che hanno lo spazio più ristretto tra dove appoggiano il telefonino, diciamo, e la massa cerebrale. Non va bene parlare troppo a lungo con quei telefoni che hanno un livello di riscaldamento eccessivo poi della cute, che quindi pare che questo tipo di, più che le onde magnetiche, insomma, pare che sia questo tipo di stimolazione abnorme calorica che possa nel tempo indurre dei problemi anche antipatici a carico del nervo uditivo e vestibolare. Onestamente, una frase di questo tipo potrebbe indurre terrore. Io credo che vada presa con grande moderazione, diciamo che è una buona norma non esagerare con il tempo e con il calore dell'uso del telefono. Quindi usare il telefono in modo equilibrato, specie nei bambini, nei ragazzini, ed evitare di mandare a fuoco l'orecchio. Ci sono delle volte che, no, le telefonate sono talmente lunghe che l'orecchio si surriscalda. Ecco, un po' meno. Abbiamo Antonio che ci chiama da Novara, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, grazie per avermi richiamato. Eccoci. Ecco, volevo sapere questo, siccome prima si parlava di equilibrio, spossatezza, io mesi addietro proprio provavo quelle sensazioni. Sì. Una spossatezza che mi dava anche delle piccole vertigini, momenti di un po' di mancanza di equilibrio quando magari ti alzavi improvvisamente e via di seguito. Facendo degli esami del sangue prescritti dal medico, è venuto fuori, l'unica cosa un po' particolare, una presenza molto alta di globuli rossi ma piccoli, che il medico mi ha motivato come poteva essere una delle cause di questa spossatezza e giramenti di testa. Volevo avere una conferma o portarlo comunque a conoscenza. Ecco. Grazie. Dottor Gualerzi? Sì, i sintomi sembrano più legati a, soprattutto 10 mesi addietro, quindi quando c'era più caldo, a un po' di ipotensione ortostatica, quindi quando ci si alza in piedi questo giramento, questa vertigine è più legata al fatto che il sangue arriva meno bene ai centri sopra il cuore, quindi ci si sente un po' di mancamento di giramento. I globuli rossi piccoli sono appunto dati spesso da una carenza di ferro o da anomalie tipo la microcitemia, che può essere una patologia comunque benigna genetica. che vuol dire da micro, piccola, esattamente? Sì, sì, e globuli rossi, quindi globuli rossi più piccoli, no? Sì. Sono delle forme, diciamo, delle varianti della norma, ma che spesso sono ben compensate e che non comportano questi sintomi. Quindi più che rendere causa, cioè più che dare questi giramenti, credo che questi giramenti siano più dati dalla pressione che si abbassa quando ci alziamo in piedi di scatto, piuttosto che da un numero, diciamo, normale di globuli rossi, anche se un pochino più piccoli. Adesso noi dobbiamo dare la linea ai mercati, parleremo anche di equilibrio emotivo, come mi scrive Adriano da Roma. Equilibrio emotivo è una contraddizione in termini, ne parliamo con la dottoressa Cacciop e con i nostri esperti, a cui vi invito a fare le domande, a esprimere i vostri dubbi, potete continuare a scriverci anche i messaggi. Equilibrio, lo perdiamo per ritrovarlo, tutto bene. Essere e benessere. Vado su un asse d'equilibrio, voi siete giù e state a guardare, io qui fra due tempi a camminare. E voi che equilibrio state cercando? 800 24 00 24. Dottoressa Cacciopo, mi manca la terra sotto i piedi, no? È proprio un modo di dire che descrive bene la perdita di equilibrio, non solo dal punto di vista fisico e posturale, ma direi anche emotivo. Assolutamente. Può capitare che ci siano delle alterazioni dell'umore, delle sensazioni un po' diverse dal solito. Si tratta di percepire le nostre emozioni. Prima l'ascoltatore parlava dell'equilibrio emotivo come una contraddizione di termini. Un po' sembra vero, nel senso che le emozioni sono qualcosa di assolutamente automatico e inconscio in qualche modo. Possiamo imparare a capire come gestirle. Un esempio che io uso spesso è proprio quello del camminare, no? Anche psicologicamente è importante sapere che non sempre si è in equilibrio perfetto, altrimenti si rimane fermi immobili, ma ci sono dei momenti in cui ci può essere un po' di disequilibrio e impariamo a gestirlo. Se il disequilibrio diventa troppo forte, abbiamo delle reazioni soggettive diverse da persona a persona, di alterazioni dei nostri bisogni fisiologici, del sonno, della fame, eccetera. Oppure anche possiamo arrivare ad avere delle emozioni che vengono percepite in maniera eccessivamente intensa, no? Fino ad arrivare a delle vere e proprie manifestazioni ansiose. Allora lì potrebbe essere importante, come dire, rivolgersi a qualcuno. Che quel qualcuno, secondo lei, è uno psicologo, uno psicoterapeuta, un medico di base, un amico? Allora, diciamo, diversi gradi, dipende un po' veramente da qual è la sensazione di malessere. Facilmente le prime persone che vengono coinvolte sono gli amici, o le perché? Perché si va da persone di cui si ha fiducia. Sì. Evidentemente io consiglio poi dopo, in una situazione dove veramente ci sia un'ansia conclamata e una fatica di un certo tipo, un disagio di un certo tipo, di rivolgersi sicuramente a uno psicologo e a un professionista. Però so che ci sono diversi gradi prima di arrivare lì. A volte però può anche essere utile, come dire, anche andarci senza aver aspettato di stare così tanto male, perché è vero che in alcune situazioni con un confronto professionale attento possono anche bastare veramente pochi colloqui. Assolutamente, quindi accettare, come dicevamo in una trasmissione di qualche giorno fa, accettare l'idea di chiedere aiuto. Sì. Professor Guidetti, molto spesso i disturbi di equilibrio portano a degli stati ansiosi, perché la persona che ha provato la vertigine improvvisa o ha avuto questi giramenti di testa violenti teme di ritrovarsi di nuovo ad affrontare una situazione di questo tipo, che è una situazione che da disagio e che quindi fa paura. In un certo senso quindi la sua professione, professor Guidetti, si intreccia anche con quella della dottoressa Cacciopo, nel senso che a volte in alcune situazioni il paziente viene anche affidato ad uno psicologo, è così? È assolutamente vero che si intrecciano fortemente i due fenomeni, perché purtroppo le caratteristiche della vertigine, che spesso è improvvisa, non si riesce a controllare, soprattutto il paziente le prime volte o la prima volta che la prova non ha più pallida idea da che cosa sia provocata, quindi crea uno stato di ansia, di anche panico, di paura, e si crea una condizione, se non è debitamente affrontata subito con dovute tecniche, diciamo, di spiegazione dei problemi, di uso magari di qualche sedativo del sintomo, insomma, se non si affronta subito il problema calmando il sintomo e calmando il malato, c'è il rischio di un'evoluzione in senso, chiamiamolo psicologico, del disturbo, con creazione di quello che si chiama uno stato di allerta, cioè il paziente diventa sostanzialmente un ansioso vero. E quando il fenomeno diventa particolarmente ricorrente come in certe malattie, si crea una condizione psicologica che richiede il supporto di uno psicologo qualche volta, certamente. La collaborazione diventa preziosa in questi momenti. Ci sono delle novità riguardo la cura di questi disturbi, professor Guidetti, della vertigine e dell'instabilità? Beh, diciamo che il mondo è cambiato molto negli ultimi 20 anni per quanto riguarda le strategie di cura di queste malattie. Per un lungo periodo si è cercato di affrontarle come si poteva, perché mancavano delle informazioni dalle scienze di base, dalla fisiologia, che ci aiutasse a capire meglio. Poi i grandi sviluppi dell'imaging, la risonanza magnetica funzionale, insomma, un sacco di cose nuove ci hanno fatto capire come il problema non è un problema banale, risolvibile con semplicemente una medicina per tutti i sintomi. Mm-hmm. Si sa che ogni soggetto ha un suo particolare tipo di disturbo e ha un modo di affrontarlo tutto suo, sia fisicamente, cioè se noi prendiamo una persona che ha avuto un deficit vestibolare acuto e poverello per qualche motivo ha anche dei problemi di sofferenza cerebrale, vascolare o cose di cui è anziano, è chiaro che recupera con più fatica, per capirci. Ma anche appunto se c'è una componente psicologica alterata da una sindrome ansiosa, per esempio, o depressiva, è chiaro che ci sono delle difficoltà di adattamento. E questo richiama l'attenzione sul cervello e su tutti gli organi all'interno del cervello che collaborano alla gestione dell'equilibrio. Quindi il problema è diventato sempre più complesso, si è passato da un orecchio piccolino messo lì a un cervello bello grande con tanti altri centri, cervello, cervelletto, amigdala, ippocampo, un sacco di strutture cerebrali che giocano un ruolo importante. E le novità quindi sono l'affrontarlo in un modo, diciamo, più attento e soprattutto impostando quello che si chiama un po' una terapia comportamentale e a maggior ragione quello che adesso definiamo la rieducazione vestibolare, cioè esercizi specifici, strutture adeguatamente preparate che insegnano al malato ad affrontare con maggiore sicurezza l'instabilità cronica e a superarla grazie all'attivazione di quei circuiti cerebrali sani che ha a disposizione per correggere il disturbo. Dottor Gualerzi, andiamo in cerca di segnali di perdita di equilibrio invece lungo, proprio guardandoci allo specchio, e avevamo anticipato uno di questi dopo i capelli è il colore della pelle che può diventare un po' spento. In questo caso che cosa possiamo fare o qual è l'origine di questo disequilibrio, se è frutto di disequilibrio? Beh, senz'altro, la pelle è anche questa, diciamo un po' la cartina di tornasole di un equilibrio interno, no? Tutti noi siamo attenti alla nostra idratazione, al colore, no? E che rappresentano dei momenti, diciamo, di alterazione più o meno marcati dei nostri sistemi interni. Cioè, quando la pelle è spenta, diciamo, questo è sostanzialmente dovuto a un problema di eccesso di sebo, quindi il sebo tende a fare spegnere un po' il colore della pelle. E tra le svariate cause, anche qui ne potremmo tirare in ballo tantissime, che vanno dallo psicologico al, diciamo, al comportamentale, anche, diciamo, ma quelle che poi riguardano più la pratica sono quelle un disequilibrio alimentare. E possiamo tra le varie cause riscontrare in chi ha questo eccesso di sebo, diciamo, molto spesso degli errori comuni alimentari che sono quelli di mangiare troppi grassi saturi. Mm-hmm. Che diciamo in questo caso li troviamo nei cibi di origine animale, quindi nelle carni grasse, no? Nei latticini, nel latte intero soprattutto. Quindi un consiglio per queste persone è quello di mangiare più grassi poliinsaturi, quindi più pesce, più oli vegetali. Tipo, diciamo, anche il pesce surgelato va bene, perché il pesce fresco costa, ma noi possiamo prendere il pesce surgelato, guarda, che costa meno. Tra l'altro quello che fa meglio è quello… Le acciughe costano poco. Il pesce costa poco, è e piccolo, sono buonissime. È intossicato meno nel stare tanti anni nel mare. E quindi va bene? Va bene. E ridurre un pochino in questo caso le fonti di grassi saturi come i latticini, diciamo, e la carne. Abbiamo Saverio dalla provincia di Teramo e Pina dalla provincia di Chieti. Pina, buongiorno, precedenza buongiorno. A lei. Sì, senta, io sono stata incuriosita dalla questione del supermercato, perché sì, quando sono fra gli scaffali del supermercato ho l'istinto di fuggire. E sì, siccome un sintomo simile ce l'ho in autostrada, cioè mi vengono le vestigini quando sono in autostrada, allora volevo capire se era un problema di vista o neurologico. Allora, cerchiamo di capire il problema affrontandolo con la dottoressa Cacioppo, vediamo se come psicologa associa queste due situazioni, questi due luoghi, autostrada e supermercato, che producono nella nostra pina una sensazione di malessere. Allora, senza fare interpretazioni selvagge, in questi casi sicuramente è sempre importante prima fare un check-up medico e capire se non ci siano delle altre questioni appunto di quelle di cui ci stanno parlando i due colleghi. Dopodiché certamente può essere approfondita la situazione particolare e può essere che effettivamente uno stato particolare di preoccupazione o di ansia possa dare origine a dei sintomi di tipo come le vertigini, che sono in effetti in alcune situazioni abbastanza simili, situazioni che evidentemente mettono in agitazione un po' troppo, quindi un'agitazione che in quel momento noi non siamo in grado di gestire con gli strumenti che normalmente abbiamo a disposizione. Professor Guidetti, lei che dice? Trovo un legame tra supermercato e autostrada? Assolutamente sì, più che autostrada, diciamo in generale ambiente con elementi in movimento. Nel caso dell'autostrada sono le macchine che si muovono vicino a noi, che si creano delle sensazioni spiacevoli perché possiamo essere incerti se siamo noi a muoversi o loro, per esempio, come quando guardiamo fuori dal treno non capiamo se è partito il treno di fianco, no? E ci dà queste sensazioni un po' strane. E invece quando siamo nei supermercati, in realtà noi sappiamo che ci stiamo muovendo e che sono fermi gli scaffali, ma lo scorrere degli oggetti sugli scaffali, nel nostro occhio. Ah, produce un po' l'effetto treno. Sì, esattamente, produce quello che si chiama effetto Fantastico. ottico-cinetico. E ci sono persone in cui questo tipo di effetto risulta fortemente destabilizzante perché hanno una ipersensibilità a quel tipo di stimolo. Possono essere ipersensibilità favorite da uno stato ansioso, possono essere ipersensibilità favorite da una situazione, come dire, è nato così, oppure possono essere espressione appunto di una patologia a carico della funzione vestibolare che produce una ipersensibilità compensatoria ai stimoli visivi, cioè uno che ha un deficit vestibolare si appoggia di più sui segnali che arrivano dall'occhio, avendo meno segnali che arrivano dall'udito. E questo può portare al disturbo simile. Essere e benessere. Pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi. Forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un Restiamo fiato. collegati, allora, all'800 24 00 24, dottor Gualerzi. A volte noi ci sentiamo in equilibrio, stiamo bene, ma leggendo gli esami del sangue scopriamo che abbiamo perso qualche equilibrio, no? Penso magari agli esami, ma anche penso alla pressione. Ci rendiamo conto che qualcosa è cambiato, abbiamo perso il nostro equilibrio e quindi il medico ci dice, signora o caro signore, dottor Gualerzi. Sì, una cosa che non mi stancherò mai di dire è che, diciamo, è vero che il disequilibrio si avverte, ma spesso i fattori di rischio che portano ad avere malattie cardiometaboliche non danno segno di sé. Quindi è difficile anche per gli esperti andarle ad interpretare se non indagati direttamente. Quindi delle volte appunto gli esami del sangue possono dare o rilevare delle sorprese che non ci aspettiamo, anche quando sono apparentemente normali. Quindi anche qui consiglio sempre la lettura attenta di uno specialista. Il colesterolo, ad esempio, può essere normale, stiamo parlando di quello totale, ma quando quello cattivo sale troppo, quello buono scende, anche valori normali di colesterolo possono essere dannosi, quindi una lettura superficiale di questo dato può essere, diciamo, fallace o comunque portarci verso la strada della malattia. E questo può succedere, avere colesterolo totale normale, ma quello cattivo alto o quello buono basso, sia per motivi genetici, quindi lo produciamo internamente, ma anche per la sedentarietà, abbiamo detto, e la cattiva alimentazione. L'ideale, se vogliamo dare dei numeri, anche un esempio pratico, è avere sempre un rapporto tra il colesterolo totale e quello buono sotto i 5, quindi se mettiamo al numeratore il colesterolo totale e al denominatore il colesterolo buono, diciamo che il rapporto deve essere sotto i 5, quindi il colesterolo buono deve essere almeno, cioè non meno di 5 volte di quello, cioè 5 volte in meno di quello totale, sì, non più basso. Adesso se lei mi fa me la fa difficile, io mi sono segnata: colesterolo totale fratto quello buono, il numero deve essere inferiore a 5? Certo, okay. Il numero deve essere inferiore a 5. Va bene, okay. Perché io vado piano, perché con i numeri non ho tanta dimestichezza, non solo con i numeri. Neanche i medici comunque, ecco, noi purtroppo. Meno è 5, meglio non prendere 5. La sufficienza. 5, non deve essere sopra 5, okay. Sennò vuol dire che in realtà il colesterolo o quello totale è troppo alto o quello buono è troppo basso, ecco, questo è il significato. Questo è un numero che mi piace, e okay. Anche la pressione però. Anche la pressione, perché noi siamo abituati a ragionare sui valori assoluti della pressione, quindi ce l'ho alta, ce l'ho bassa, ce l'ho normale. Però uno degli aspetti più importanti che si sta analizzando in questi ultimi tempi è proprio la differenza che c'è fra la massima e la minima, quindi anche valori normali o relativamente normali di pressione, ma che sono caratterizzati da una forte differenza fra la massima e la minima, cioè sottraendo la pressione minima alla massima, quando il numero è superiore a 50, no, ecco che questo è stato attribuito a un maggior rischio di sviluppare, diciamo, rischio di ictus e di infarto a lungo termine. Quindi in realtà la massima e la minima non dovrebbero mai essere molto distanti, o comunque devono avere la loro distanza, ma mai superiore a 50, perché questo comporterebbe un disequilibrio che porta appunto ad avere più facilmente problemi di tipo cerebro cardiovascolare, da intendersi ictus e infarto nel medio periodo. Quindi ricordiamoci questo 5, per il colesterolo il rapporto deve essere inferiore tra colesterolo totale e colesterolo buono deve essere inferiore ai 5, mentre tra massima e minima, dottor non Gualerzi, deve, mai superare il 50. Abbiamo ancora tempo, un minuto, vero? Sì, dai, veloce, Cristina da Pistoia, buongiorno. Buongiorno. Domanda rapida, risposta rapidissima, sì. Così ho dato un messaggio anche ai miei esperti. Vada. Grazie. Ho avuto un'esperienza bruttissima mentre viaggiavo da Bologna a Firenze, ha cominciato a nevicare, ho sentito la macchina che in qualche modo non mi teneva la strada. Non saprei dire se fosse una sensazione o la realtà, so che la sensazione è andata, di disagio è andata a aumentare fino a arrivare anche al panico, e so che da allora tutte le volte che faccio i viadotti riprovo la stessa sensazione di panico, come anche nella galleria. Ho sempre guidato molto bene, non mi sento più sicura di quello che faccio alla perché, guida quando sono. Perché si ha la paura, dottoressa Cacioppo, di ritornare ad avere paura, a rivivere la paura. In questo caso? In questo caso, allora, è evidente che come dire, la reazione fisiologica di spavento la prima volta che ha sentito che la macchina non rispondeva al controllo, in qualche modo è rimasta molto impressa nella sua mente e ci pensa anche in situazioni in cui questa cosa in realtà oggettivamente non c'è. Si può uscire da questo circolo vizioso? Ma in un caso del genere direi che allora sì, sarebbe bene rivolgersi a un professionista, perché questa ascoltatrice ci sta dicendo che effettivamente comincia a diventare un problema un pochino invalidante. E ci sono, e attraverso degli incontri con uno psicologo il professionista riesce a rimettere la persona in grado di affrontare quella situazione spegnendo la paura? Sì, riesce a rimettere ad aiutare la persona a recuperare le risorse che già quella persona ha. C'è una sorta di riabilitazione. Sì, diciamola così, dal punto di vista emotivo sì, ci sono delle risorse e vanno semplicemente ritrovate. Grazie alla dottoressa Cacioppo, al dottor Gualerzi, al professor Guidetti, grazie a voi che siete intervenuti, ci avete ascoltato, ci avete seguito, scritto a Carmelo Lauricella, che è in regia la parte tecnica, e a Laura Vanossi in redazione. Noi ci sentiamo domani, buona giornata, buon equilibrio. Essere e benessere.